Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, è purtroppo storia ricorrente che dall'Europa ci vengano comminate sanzioni per mancata attuazione di direttive comunitarie. È famosa l'avvertenza delle quote latte, per la quale sfido chiunque a dichiarare di aver capito il perché ci furono attribuite quote inferiori alla potenzialità produttiva, mentre si importava latte dall'estero. Sfido chiunque inoltre a capire se tali multe furono pagate e da chi. A parte questa vicenda, mi piacerebbe trovare qualche giornalista di coraggio e buona volontà che andasse a spulciare le sentenze e dicesse: cari italiani, sappiate che dovrete sborsare un certo ammontare di quattrini perché il tal ministro o la tale istituzione non ha fatto il suo dovere nei tempi e nei modi previsti nei confronti degli impegni sottoscritti con la Comunità Europea. E magari andare a tirare la giacchetta a chi di dovere e chiedergli conto del suo operato. Un sogno? Grazie, Maurizio. Gentile Maurizio, c'è un altro tema su cui l'Italia è inadempiente: la creazione di un numero telefonico unico per le emergenze. L'Europa ha chiesto a tutti i paesi di istituire il 112 come punto di riferimento. In Italia c'è il 113, ma anche il 118 per le emergenze sanitarie o altri numeri per l'ambulanza o i vigili del fuoco. Mentre se si chiama il 112 rispondono i carabinieri. L'esecutivo comunitario ha chiesto così alla Corte di Giustizia di infliggere una multa all'Italia di 39.680 euro al giorno dalla data del precedente richiamo della Corte, il 15 gennaio del 2009. Finora fanno circa 20 milioni di euro. Probabilmente l'Italia, se adempirà nelle prossime settimane, potrà risparmiarsi la multa, ma certamente non si è finora risparmiata una brutta figura. A proposito di Israele, si sapeva della nave, si sapeva chi c'era a bordo, si sapeva perché stava lì. Era una nave civile entrata in una zona proibita, ma non nel mezzo di uno scambio di fuoco. Era circondata dalla marina israeliana. Le hanno fatto dei segnali, non si è fermata e l'hanno abbordata. Risulta abbia fatto resistenza con bastoni e lancio di oggetti e forse due pistole. Il super esercito israeliano, super addestrato e super armato, non riesce a resistere ad un assalto all'arma bianca fatto da dei civili pacifisti senza fare 19 morti? Non si può raccontare che fare 19 morti su quella nave è stato difendere la propria sopravvivenza, visto che non rappresentava alcun pericolo. Non vi è alcuna proporzione fra la minaccia che rappresentava, la resistenza che può aver fatto e la conseguenza che ha subito. La sicurezza di Israele è un principio importante, ma non un principio unico e assoluto. Pietro. A tutti coloro che si stracciano le vesti per i palestinesi e condannano senza appello gli israeliani, chiedete se sono mai stati a Tel Aviv, Gerusalemme o Haifa, o se hanno incontrato o conosciuto qualche israeliano o palestinese. Se si vive in quei luoghi per qualche tempo, anche solo per pochi giorni, emergono subito mille contraddizioni e sfumature in un paese sostanzialmente minuscolo e più piccolo della Lombardia, ma democratico. Molti paesi del Medio Oriente hanno sempre agito per impedire la pace ed è noto che nei cargo e lungo il confine con l'Egitto in passato sono state trafugate armi per gli Hezbollah. Ciò non toglie che gli israeliani possono aver fatto errori che eventualmente emergeranno, come già è avvenuto in passato, ed è ovvio che sia da condannare l'espansionismo degli insediamenti. Luca. Caro direttore, mai e poi mai capiterà una simile occasione per rimettere in sesto il nostro paese come quella che abbiamo oggi. Premetto che sono un ricco imprenditore italiano del nord-ovest, ovviamente incavolato nero con i nostri politici. In queste settimane abbiamo l'occasione, senza troppi dolori, di fare sacrifici tutti insieme per il nostro paese. Dovremo comunque fare meno sacrifici rispetto ad altri paesi, ma solo se non ne approfittiamo. Eravamo sulla buona strada e invece, come al solito, i politici parassiti si sono messi di traverso. Le cose da fare, secondo me, sono semplici. Innalzare le pensioni, tagliare le province, tagliare almeno il 70% degli enti inutili, mettere in atto il federalismo, tagliare almeno il 50% delle auto blu, così facendo ne avremmo ancora 5 volte in più della Germania o della Francia, fare una patrimoniale, definitiva o una tantum che sia, alzare di un punto percentuale l'IVA sui consumi e nessuno se ne accorgerebbe, alzare le aliquote sulle rendite finanziarie portandole dall'attuale 12,5 ad almeno il 18-20%. Rimarrebbero talmente tanti soldi che si potrebbero risolvere i problemi necessari per la crescita, sia quelli sociali, sia quelli delle infrastrutture. Purtroppo, come al solito, sto sognando. Pippo, Torino. Uno Stato onesto, come un buon padre di famiglia, verifica quali sono i costi inutili e li elimina immediatamente. In seguito cerca di ottimizzare quello che ha. In termini pratici, prima dovrebbe tagliare i costi della politica, che sono enormi. Non solo il Parlamento, ma tutta la politica italiana. Poi dovrebbero eliminare l'evasione fiscale e le auto blu. Negli altri paesi i politici utilizzano i mezzi pubblici. Dovrebbero ottimizzare le risorse pubbliche e far funzionare la giustizia. Tutto questo si sa da sempre, ma non si è fatto mai nulla per cambiare. Per cui sono convinto che le cose rimarranno le stesse e non si farà nulla di quanto si dovrebbe fare. Lo sappiamo tutti, non prendiamoci in giro. Sono solo chiacchiere. Antonio, dalla provincia di Pescara. Abbiamo circa 550.000 auto di Stato. Il secondo paese dopo il nostro, in quanto a flotta di auto ufficiali, ne ha meno di 50.000. Se mettessimo in liquidazione 500.000 auto, otterremmo una manovra non di poco conto. Varrebbe oltre 5 miliardi di euro, se le auto venissero rivendute al prezzo dell'usato di miglior qualità che, mediamente, credo superi i 10.000 euro a veicolo. 500.000 auto per 10.000 euro fanno 5 miliardi di euro. A chi andrebbero rivendute? Semplicissimo. A chi le ha attualmente in uso. Chi ce l'ha sa come l'ha tenuta, la sta usando, quindi gli è necessaria. Si tratterebbe semplicemente della fine di un privilegio assurdo non presente in alcun altro paese civile. E chi rifiuta di comprarla dovrebbe essere citato su tutti i giornali locali e nazionali per dimostrare la partecipazione di questo servitore dello Stato al dissesto che ha contribuito a generare in questo paese. Non sulle spalle del capo si è mangiato, ma su quelle nostre. E l'opposizione si fa coi numeri, non con le parole. Marco. Ho 60 anni e da molti anni non voto più per le elezioni provinciali in quanto ritengo la provincia un ente inutile. Credo che l'astensione sia l'unica arma, seppur spuntata, per manifestare il mio dissenso. I presidenti di provincia, vostri ospiti, cercando di difendere le loro province, hanno fornito il miglior sostegno alla necessità di sopprimere per inutilità questi enti, che, come tutte le cose inutili, spesso diventano anche pericolose. Pensate all'assurdo delle province che hanno addirittura istituito la polizia provinciale. Che compiti avrà? Che bisogno c'era? Purtroppo si era forzata in me la certezza che nulla cambierà. Non saranno soppresse le province, anzi, passata a nuttata, saranno riesumati i numerosissimi disegni di legge giacenti in Parlamento per crearne di nuove. Non saranno fatti i tagli alle spese della politica, neppure saranno congelati gli aumenti degli stipendi agli statali, per i quali, come per la politica, non esiste cassa integrazione. Certamente eliminando il lavoro nero, l'evasione fiscale e la criminalità organizzata, non ci sarebbe bisogno di fare certe manovre. Ma allora vivremo in un altro paese, con un'altra classe politica. Carlo, dalla provincia di Massa Carrara, che per un attimo ha sperato di veder scomparire. Come mai i nostri amati giudici sono gli unici che hanno già deciso lo sciopero per via dei tagli agli stipendi? La casta è stata colpita, ma non si piega. Spero che nessuno nel governo pensi di recedere da tale decisione. Non credano che, facendo un passo indietro, da domani i giudici saranno più morbidi nei confronti del governo. Claudio. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.